sulla luna che ha fatto il film. Abbiamo fatto gli studi, siete in te e noi siamo arrivati in missione. Siamo di qua, puttana da fascia, pezzo di merda! Pezzo di merda! Mo te sputo, che fai? Buongiorno! Buongiorno, un cazzo! Runtime Radio! Ne fa un'altra! Buongiorno amici di Runtime Radio, come se niente fosse, ci rinsinuiamo qui nell'etere digitale di runtimeradio.it per cercare di farvi compagnia e insomma cercare di parlare insieme a voi anche di quello che ci viene in mente, soprattutto perché abbiamo visto che questa mattina ci sono stati dei problemi tecnici e che insomma non sappiamo bene ancora se questi problemi sono stati risolti, ma qualsiasi problema sia stato era colpa mia. Dai e buongiorno, è uno stragazzo oggi, sì, ma l'importante è che adesso si sente bene, perché c'è un doppio, triplo motivo per insomma incazzarsi, diciamo così, questa mattina, perché c'è successo questo casino. Ma in realtà vi dico che stavolta è colpa mia, quindi non c'entra il server, poverino, che poi ce la prendiamo sempre con lui, non c'entrano insomma le connessioni poverine che ce l'abbiamo sempre con loro, ma è stata colpa mia perché per fare quello che faccio durante l'arco della giornata, ossia lo streaming, ho fatto praticamente una connessione virtuale di driver audio che servono per continuare a streamare senza tenere acceso il mixer. So che queste cose a voi non vi fregano, però insomma, poverino, pure il mixer alla fine aveva bisogno di posare, insomma, quindi ho fatto questa cosa qui. E nel ripristinare questa mattina, evidentemente, insomma, non è proprio ripristinato bene, insomma, quindi qualcosa, dato che l'ho fatto così al volo, così pam, volante, sta cosa l'ha digerita un po' così, diciamo, ma che cazzo, che da fare? E quindi niente, insomma, ragazzi, però l'importante è, da quanto capisco, adesso vengo a rivedere in chat, ma mi pare di aver capito che adesso ci sono e funziona tutto ok, perfetto, grazie Walter del supporto tecnico. D'altronde noi siamo sempre un po' tutti lì vigili quando ci sono gli altri che noi chiamiamo colleghi, ma in realtà poi sono amici, chiaramente, che stanno lì, magari stanno a fare la diretta, tutti ad un minimo di supporto, perché senza di questo faremo dei disastri, penso, senza se e senza ma. Ragazzi, io prima di iniziare veramente volevo dirvi che mi piacerebbe tornare anche a, e questo lo dico alle persone che ci ascoltano, magari le persone che magari hanno dei contatti o cose del genere, mi piacerebbe portare nuovamente la cosa del brano del giorno, e quindi se conoscete delle band, delle band semiprofessionali che già insomma hanno degli EP insomma alle spalle, che stanno lanciando qualcosa di nuovo, ma anche se non stanno lanciando qualcosa di nuovo, che vogliono comunque magari far ascoltare un proprio singolo, noi possiamo ripristinare il brano della settimana, e il brano verrà mandato insomma ad ogni sessione di trasmissione qui su Runtime Radio, con magari il saluto all'inizio della band, con un file audio registrato a parte, un saluto da XY a Runtime Radio, vi presentiamo il nostro brano Ma che bella canzone che abbiamo scritto nell'estate del 39 durante l'alluvione di Gazzopelipoli, insomma, ecco, questo è quello che dovreste fare. E allo stesso tempo, dato che ci sono insomma delle idee, dei progetti che stiamo cercando di portare avanti in qualche maniera, e comunque anche una sorta di espansione della radio che è uscito fuori insomma dalle riunioni di ieri sera, che voi non avete ascoltato chiaramente, ma noi sì, l'abbiamo ascoltate, pensate, siamo andati alle riunioni e abbiamo ascoltato. E se avete comunque degli speaker, delle persone che hanno magari delle idee, che vogliono proporre, che ne so, una trasmissione sul calcio, sulle formiche assassine o quello che vogliono, se sono interessati e sono nelle condizioni, che sono abbastanza bravi e magari ci sono le condizioni tecnologiche per farlo, sarebbe carino insomma estendere la quantità di trasmissioni live che fa Runtime Radio, che già so tante, però insomma più estendiamo e più ovviamente diventiamo una realtà riconoscibile da questo punto di vista. E quindi insomma fateci sapere, potete tranquillamente scrivere tutti, sia per la band che per questa cosa, a runtimeradio@gmail.com e vi risponderò insomma in mantinente, pensate, non so cosa significa, ma vi risponderò in mantinente, pensate. Ciao, mi presento. Io sono Runtime Radio. Ti sembra un'affermazione strana? In realtà non lo è. Ti spiego. Tutti ti dicono che Runtime Radio si regge sugli sforzi dei vari speaker, di Simone Pizzi e Alex Raccuglia, eccetera, eccetera. Ma non è vero. Runtime Radio sono io. Io sono una sofisticatissima intelligenza artificiale che cerca di raccogliere consensi tramite il travestimento in una semplice e accogliente radio pirata di quartiere. Ma il mio scopo è quello di conquistare il mondo. Mondo. Dai, su. Ovviamente sto scherzando. Stai ascoltando Runtime Radio, la radio geek. Il frutto di oltre 10 anni di produzione di contenuti a tema tecnologico e non solo. Oggi Runtime Radio sta affrontando una grande trasformazione. Lo scopo è di fare sempre più live, sempre più radio. Ascolta Runtime Radio e tutti i suoi programmi su www.runtimeradio.it. Quello che è il tempo che mi rimane, insomma, diciamo il tempo che non ho sprecato a fare quello che stavo facendo, sia casino, vorrei parlare invece di argomenti correlati alla guerra, che sono argomenti che sì, fanno parte della guerra, ma sono prevalentemente correlati, cioè nel senso sono con tutti quegli effetti collaterali di cui ho letto e sto sentendo parlare molto nei social e negli articoli, che sono cose che noi sappiamo già che succedono insomma abbastanza normalmente in condizioni anche non meno drammatiche, ma insomma in condizioni similari, ecco, diciamo così, e che mi fanno molto riflettere in generale sull'umanità, non in senso generale, no? Nel senso che allora se succedono queste cose allora l'umanità fa schifo, buttiamoli tutti, però insomma mi domando sempre. Capisco che c'è gente che magari cresce in un contesto criminale, che magari cresce con quella cultura, quella mentalità, no? Però poi tante volte mi domando, sì, ma ok, per te è culturalmente un espediente, un modo di vivere, di sopravvivere, ma non ce l'hai un limite morale? Cioè nel senso non esiste un punto nel quale dici vabbè dai, oltre qua non ci vado? Non ce l'hai una madre, una sorella, anche tu, che magari ti possano portare a pensare, ma se dovesse succedere a me una cosa del genere, no? Evidentemente no, chiaramente, cioè nel senso, so domande retoriche, non voglio dire ah ma i bambini, non ci penso ai bambini, cioè voi sapete che non sono questo tipo di persona, soprattutto perché io quando sento queste cose un po' mi innervosisco, però chiaramente un minimo di riflessione a volte bisogna farla, no? Cioè non si può non fare questo tipo di riflessione, e nello specifico chiaramente sto parlando degli sciacalli, ecco, insomma, diciamo di tutto quel fenomeno sciacallistico che praticamente si viene a creare alla fine, cioè in ogni situazione drammatica dove ci sono degli sfollati, dove ci sono degli esodi, dove ci sono delle persone che vanno a cercare rifugio altrove, e dove spesso e volentieri c'è anche distruzione, no? Quindi poi alla fine è anche una cosa un po' pericolosa, ossia tutte quelle persone che approfittano di una situazione del genere per imbucare dentro le case delle persone che sono scappate, che magari sono state anche case colpite magari da un bombardamento, per andare a rubare tutto quello che giustamente le persone non si sono portate via, anche perché quando scappi da una situazione drammatica improvvisa, chiaramente non può che succedere che questa cosa succede all'improvviso, e quindi praticamente niente, salutiamo, ciao. E quindi spesso e volentieri magari prendi proprio le cose più immediate, quelle insomma di più stretta necessità, capace magari che se c'hai la prontezza prendi l'oro che hai dentro casa, questo sì, però insomma tante cose che tu hai dentro casa rimangono lì, e con la speranza magari un giorno di poter tornare e recuperarle, che possono essere anche solo semplici affetti, oppure invece ancora peggio possono essere cose magari proprio di valore, che hanno comunque un valore. E quindi pensare a queste persone che piano imboccano dentro le case della gente, rubano, veramente mi fa una tristezza infinita, anche perché ok, li posso ricollegare al fatto che magari anche a lui è successo la stessa cosa che è successa alle persone che sono scappate, magari quella persona non è voluta scappare, però diciamo non sa come cavarsela e cerca di trovare questo espediente, però secondo me questo è un ragionamento che vale fino a un certo punto, anche perché io penso che siccome che queste cose sono sistematiche, vuol dire che esiste proprio una categoria di persone che nella vita fa questo, cioè si dedica a questo qua, cioè ad andare praticamente a rubare a casa della gente. Ed è una cosa, a casa della gente in questa situazione, l'abbiamo visto anche con i terremoti, non è che è una cosa che ci stupisce particolarmente. Ogni volta che c'è un qualcosa che crea una catastrofe improvvisa, che può essere un evento naturale, può essere una guerra, ma anche un evento sociopolitico, vedete sempre che sbucano fuori tutte queste persone che approfittano del disinnesco delle regole morali e sociali e si inseriscono all'interno in questo contesto per fare praticamente tutte queste cose. Ed è veramente una cosa drammatica che non, della quale io non mi capacito, cioè è una cosa e ancora peggio ci sono poi tutte quelle persone che si approfittano proprio del contesto umanitario, cioè ancora peggio, cioè nel senso, perché se lo sciacallo che entra dentro casa è inaccettabile, però forse diciamo un 20% della cosa la puoi giustificare col fatto che magari anche lui si trova in quella situazione, invece chi si approfitta dei contesti umanitari, quindi degli aiuti umanitari o della situazione in sé, adesso vi faccio due esempi in particolare, lì secondo me sei proprio tu, cioè sei tu, e essendoci poi la legge marziale in un contesto come questo, secondo me questi vanno proprio cercati, trovati e estirpati, perché comunque è veramente gente che non, secondo me non ha quel presupposto morale per stare all'interno di un contesto sociale, perché che è un punto fondamentale insomma per poter vivere civilmente all'interno della società con delle regole, e in particolare sono quelli che cercano di fare del tutto per usufruire dei beni alimentari e non ovviamente degli aiuti umanitari, chi addirittura li ruba, quindi insomma si organizza anche, fanno atti di pirateria e via dicendo, ma è una situazione drammatica che è stata raccontata e documentata un utente che seguiva Michela su Instagram. Devo dire, Instagram da questo punto di vista ha fatto il bene e ha fatto il male, forse anche più, di Twitter, che una volta Twitter era comunque il sistema con il quale si potevano lanciare degli allerta, delle notizie importanti dell'ultimo minuto, magari molto velocemente, essendo comunque uno strumento che si basava comunque su una quantità di testo concentrato. Invece Instagram, secondo me, ha cambiato anche un po' il modo di fare il reportage, perché molta gente documentava anche in tempo reale, parzialmente in tempo reale, quello che succedeva, raccontando quelle che erano le situazioni. E quindi da questo punto di vista Instagram si è rivelato molto più utile e importante rispetto a quanto non sia per gli altri social, in particolare, vabbè, TikTok, ne abbiamo parlato l'altra volta quando Michela stava facendo la trasmissione, che abbiamo parlato di tutti quegli influencer che si mettono lì e piangono e scrivono la lettera alla madre di Putin o cose del genere, insomma, che abbiamo visto. E in uno di questi reportage, ovviamente fatti anche da non professionisti, che magari si trovano nel contesto, nella situazione, perché magari sono italiani che sono lì per dare una mano con i corridoi umanitari, c'era questo tizio che raccontava, e poi ha fatto vedere anche delle immagini di questa persona che stava con l'abbigliamento ufficiale della protezione civile italiana al confine con la Polonia. No, non è Salvini, ragazzi, anche se diciamo che diversamente, insomma, non è che cambia molto come tipi di soggetti. Questo tizio che praticamente avvicinava le donne, e dato che la fase più significativa dello sfollamento dei rifugiati ucraini in particolare sono donne e bambini, in quanto gli uomini per decreto marziale, insomma, devono rimanere sul territorio perché devono combattere, quindi praticamente sono prevalentemente donne e bambini, che nella fattispecie sono anche un aspetto debole, diciamo, della società, e questo chiaramente non può che non destare attenzione, no? Da un certo punto di vista, soprattutto da tutti coloro che devono controllare questi flussi, e soprattutto quelli che sono i corridoi umanitari e le persone che sono qualificate, attestate per fare questo tipo di discorso. Anche se mi rendo conto che non è facile in una situazione come questa riuscire a controllare tutto. E quindi c'era questo tizio con questo abbigliamento ufficiale della protezione civile italiana che invitava delle donne praticamente ad andare con lui per andare ovviamente nei centri di rifugio a loro spettanti. E quindi questa persona si è avvicinata a questo che stava facendo il reportage, si è avvicinato a questo tizio e gli ha detto, ha cominciato a parlare in italiano per capire, insomma, a che tipo di gruppo appartenesse, insomma, cercando, insomma, di fare due o tre convenevoli. E questo praticamente non solo non parlava italiano, perché non parlava italiano, ma piano piano, tipo effetto del gamberetto e cammina al contrario, ha fatto fu, fu, fu, fu, fu, fu, capito, cercando, insomma, di darsi. E quindi lui per un po' di tempo non l'ha più visto, il che ovviamente sempre questa persona che stava facendo il reportage è andato dalle autorità a segnalare questo fatto. Dice: guardate che qui ci sono delle persone che con degli standard, insomma, con i sigilli, insomma, i simboli delle varie associazioni chiamate in causa, prendono delle donne e non si sa dove le portano, perché poi chiaramente, e siccome che dice quello, lui l'aveva già intravisto sto tizio, quindi era andato lì a puntarlo proprio perché l'aveva già visto e non gli sembrava tanto regolare, vuol dire che questo chissà quante persone si è portato via e dove l'ha portate. Chissà che ci ha fatto, perché poi la cosa più positiva che possiamo pensare nella drammaticità è che le abbia indotte, che ne so, verso la prostituzione, perché è la cosa più positiva che mi viene in mente, e va sicuro che non intendo dire che sia una cosa positiva, chiaramente. E questa è un'altra cosa che veramente fai schifo, cioè io non voglio fare il moralista, perché lo sapete che non è quello, il pampini poverino, no, non è quello, però fa proprio schifo sta cosa, perché a me non mi verrebbe mai in mente, chiaramente, ma anche a te che ti viene in mente, no? Ma che cazzo c'hai a posto dello stomaco? Che c'hai, vabbè, a posto del cuore sicuramente un pezzo di latta, un pezzo di merda, perché non oso pensare, insomma, no, come, come tu possa ragionare, come tu possa sentirti anche a posto con te stesso, no? Quando torni a casa, come è andata papà oggi al lavoro? Tutto a posto, anche oggi abbiamo il pane da, per mangiare. E detta così, poi alla fine uno può anche capire che ci sono situazioni di disperazione. Però queste sono persone proprio mentalmente organizzate, mentalmente strutturate a fare questo. Cioè, per loro è un fatto che si, si debba fare così. Che probabilmente non c'è manco niente di male. E questo veramente, ragazzi, è una cosa che a me, alla fine, tutto sommato, un po' mi sconvolge. Non so, non so cosa ne pensate voi. Christian Vuliar, Christian con la K, questo si chiama Christian, no? Che volete fare? E la canzone si intitola Love is Evil, e quindi non mi piace questa cosa, non è brutta cosa, l'amore è brutto, brutto, brutto amore. Andiamo avanti con la seconda cosa della quale vorrei parlare oggi in generale, che parte da un presupposto, ossia praticamente dalla, dalla oramai conclamata guerra tra, tra Lotito e Gravina, che è una cosa, insomma, che insomma oramai è abbastanza sugli, sotto gli occhi di tutti, e che estende un po' il discorso al, al mondo del calcio in generale, che sta vivendo una crisi sicuramente finanziaria, sicuramente sportiva, ma di certo etica e morale, perché chiaramente adesso noi stiamo tutti quanti facendo questo discorso contro la Russia, quindi che la Russia debba essere estromessa dagli eventi sportivi, e Walter ieri per esempio ha parlato di quei parlamentari, ex parlamentari del Movimento 5 Stelle, che hanno presentato un documento per far reintegrare gli atleti russi alle varie competizioni internazionali, e vabbè, fanno ridere tutte e due le cose, no, fondamentalmente. Uno, l'estremissione a priori sulla base di nessun regolamento, perché tu devi comunque contemplare un regolamento che dice se tu sei un paese aggressore non devi, ma se alla fine il merito sportivo viene condizionato da un comportamento politico, diciamo che lì, anche lì si creano ulteriori precedenti tra i mille precedenti che si stanno creando in questi tre o quattro anni speciali, anzi questi due o tre anni, diciamo, speciali, nei quali ovviamente le regole valgono per tutti. Poi tra l'altro, scusate, mi ero dimenticato di leggere sulla cosa di prima di Walter, che lui dice purtroppo non è un caso che si usa il termine sciacalli, e poi magari in famiglia sono dei padri modello. Esatto, perché questa è la cosa ancora più sconvolgente, no? Che è un po' quello che dicevo quando ero io ragazzino e andavo alle manifestazioni e piovavamo le bastonate dai celerini, che quando stavano lì tu li vedi, stavano proprio con gli occhi iniettati di sangue, e poi tornano a casa: ma papà sei tornato, sì sì bello, vieni adesso giochiamo un pochino insieme, no? Cioè io stesse immagini così desincronizzate mi disturbano proprio il cervello, cioè proprio secondo me c'è qualcosa che non va. Poi Francesco ci spiegherà che è normale, che è tutto a posto, ma sì, sicuramente non lo metto in discussione, però è proprio me, no? Nella mia, cioè quello che mi vibra dentro, che è un po' strano. Comunque torniamo al discorso dello sport, perché voi sapete insomma che a San Pietroburgo, vabbè, questo ci può stare insomma come tipo di discorso, non è che io sono contro la cosa, però mi fa ridere, capito, queste decisioni così improvvise, dove praticamente noi il calcio si erge, ma lo sport in generale, ma il calcio in particolare, in quanto comunque quasi capofila insomma di tutto questo tipo di discorso, si erge a moralizzatore. Quindi niente per finale Champions League a San Pietroburgo, e in tre minuti hanno deciso che se va a Parigi, no a Roma o a Madrid o a Londra, se va a Parigi così proprio arbitrariamente, pa, così senza rifare una selezione, una cosa. Comunque vabbè, al di là di questo, e le squadre russe pure, no, per la qualificazione, la squadra russa, la qualificazione mondiale, insomma sapete, no, tutta la storia che tra l'altro questa cosa agevola chiaramente le squadre che sono all'interno dei gironi di playoff per chi si qualifica ai prossimi mondiali. Ma è proprio ai mondiali che voglio arrivare, perché in questo grande insomma lavoro bellissimo e ammirevole lavoro di moralizzazione del calcio e dello sport in generale, giustamente la cosa che comanda in maniera inderogabile, e questo nel calcio noi l'abbiamo visto milioni di volte, perché abbiamo visto dei campionati del mondo fatti in Corea del Sud quando si sapeva perfettamente che non c'erano le condizioni di sicurezza sportiva per poterlo fare, l'avevamo già visto a Seul durante le Olimpiadi, no? L'abbiamo fatto in Argentina nel 78 quando un feroce regime militare aveva sterminato madri e figli delle opposizioni e via dicendo, ma l'abbiamo visto in tantissimi altri casi, compreso il Qatar. Il Qatar, che non è solo una cosa che c'hai qui sulla gola, ma è un discorso insomma abbastanza importante, quello stato che noi ci siamo subito eretti a proteggere dall'invasione dell'Iraq nella famosa prima guerra del Golfo, perché Saddam Hussein aveva le armi di distruzione di massa e perché aveva invaso il povero Qatar, che dalla sua insomma in difesa posizione di stato democratico e rispettoso dei diritti umani, giustamente andava protetto. Adesso si beccano anche un bel campionato del mondo, a suon di miliardi di petrol, miliardi di dollari, in un contesto dove anche le più basilari regole della civile convivenza, dei diritti umani, dell'eguaglianza, del rispetto appunto dei diritti umani, insomma, venga tenuto in considerazione. Ad esempio c'è il fatto che le donne non possono allo stadio, cioè nel senso è una cosa che ma dove stanno di che morale nel calcio? Vabbè, ma aspetta, poi dopo ti leggo. Sono d'accordo, cioè il principio è che in teoria, no, dovrebbe essere così, perché se tu mi fai una lezione nei confronti di quello che è brutti, russi e cattivi, e poi dopo vai in Qatar a fare un campionato del mondo che tra l'altro stravolge tutto il mondo del calcio sta cosa, perché è un campionato del mondo che per ragioni climatiche si dovrà tenere in mezzo all'inverno, quindi proprio in pieno svolgimento di tutti quanti i campionati, quindi campionati che verranno completamente falsati dal fatto che verranno spaccati in due, cioè, e quindi ovviamente saranno doppia preparazione, doppia situazione, perché poi un campionato del mondo non è che dura tre minuti, dura un mese, e chiaramente quel mese non è, dice, sai, se tu esci prima al primo turno allora da poi ricomincia il campionato, no, perché ci sono tutti gli altri giocatori di tutte le altre nazioni che vengono a giocare nel tuo campionato, no? Quindi alla fine c'è questa cosa, insomma, del Qatar che va bene. Il Qatar va bene, quando inizieranno questa kermesse mondiale racconteremo di un Qatar che ha fatto grandi progredimenti, che vedete ci sono 4 donne allo stadio perché è stata data una deroga, perché è tutto cambiato, oppure ci saranno quelli che andranno lì a fare, vedete, guardate i bambini poveri che mangiano la terra negli angoli delle strade, che brutto essere qui venuti al calcio. Quindi sempre questa dicotomia banale, retorica, no, di chi dice no vabbè tutto a posto, viva la FIFA, e c'è chi invece dovrà fare assolutamente il contrario, andrà a cercare nei sobborghi pieni di merda e dire guardate che stiamo facendo il mondiale dove qui ci sono i sobborghi pieni di merda. Semplicemente basterebbe un po' di equilibrio da questo punto di vista, e questa cosa del mondiale in Qatar chiaramente a tanti non è andata giù. E io credo che il calcio in qualche maniera, nella sua indispensabile necessità di mantenere un livello economico che evidentemente come modello non è più sostenibile, sta praticamente raschiando in maniera insostenibile e anche patetica, insomma, il barile. Lo dico da appassionato, lo dico da persona che comunque il calcio lo vorrebbe sempre difendere in qualche maniera, perché oltre a essere un indotto, un'industria importante anche per le persone che ci guadagnano, ma perché comunque a me piace poi fondamentalmente, e quindi faccio fatica, insomma, però bisogna comunque poi essere anche un po' quanto più oggettivi possibili nei limiti del possibile, appunto. E chiaramente, insomma, con questo raschiare il barile alla fine si mettono anche le entità sportive stesse, le società di calcio, i campionati, quindi tutto il problema finanziario annesso e connesso, compresi gli sportivi, i giocatori che dovranno andare a giocare in un contesto diverso dal normale, ad orari sicuramente improponibili perché bisognerà vederlo poi in televisione. E ricordatevi i campionati del mondo negli Stati Uniti, che l'Italia giocava ha giocato la finale, se non era la finale ma la semifinale, a mezzogiorno, in territori dove praticamente c'erano 95 gradi che venivano da sotto, non da sopra, quindi c'era proprio il caldo che arrivava, gente che sveniva, cose assolutamente improponibili, falsando anche ovviamente il risultato, perché magari squadre che in certe condizioni più climatiche più normali avrebbero fatto X poi si sono trovate a fare Y. Insomma, vabbè, questo è un po' il risultato, una cosa che ci fa veramente ridere tutto quello che sta succedendo. Ma la ciliegina finale ve la dico fra un attimo, perché ovviamente se il calcio a livello globale sta facendo del tutto per suicidarsi, in Italia ovviamente anche grazie a questa lotta intestina fra Gravina e Lotito, insomma, chiaramente sta portando a dei livelli ridicoli tutta la situazione del calcio, con colpa probabilmente di entrambi, però c'è da fare un distinguo secondo me, anche se chiaramente sarà un distinguo fatto magari visto da un punto di vista soggettivo, però ci sono da dire un paio di cose, e poi parliamo anche dello striscione. www.runtimeradio.it, vieni a scoprire la Radio Geek. Il mattino all'Orin Podcast torna live con una nuova programmazione. 3 appuntamenti settimanali per parlare di attualità, cinema, giochi, fumetti o anche solo per stare in compagnia prima che la giornata cominci. In onda su www.runtimeradio.it o in differita su Spreaker o su YouTube. Il mattino all'Orin Podcast. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 7 alle ore 8, sempre e solo su Runtime Radio. Searching for searching for. No sad goodbyes or lonely cries, we've heard them all before. Yes, you're the one that I've been searching for. You are the one I've been searching for, ragazzi. Ma che titolo è, ragazzi? È un titolo per far venire l'ictus alle persone. Bello, bello, sapete, a me il country mi piace assolutamente, mi riporta un po' di buon umore, anche quelle tristi mi riportano, non dico buon umore, però insomma diciamo che mi riportano buon umore, l'ho detto? Vabbè, comunque dicevamo, torniamo un attimo a parlare di questa cosa del calcio, perché prima di andare a questa botta finale delle grandi idee, insomma, della Federcalcio e della Lega di Serie A, insomma, che veramente, ragazzi, io penso che la gente oramai se, cioè, nel senso, pensa che non vale manco più la pena. Io mi ricordo quando c'è stata la cosa del, vabbè, ovviamente per motivi anche futili, no? Cioè, nel senso, uno potrebbe anche renderlo discutibile. Non so se vi ricordate, l'anno prima che la Lazio ha vinto lo scudetto, la Lazio lo stava vincendo anche l'anno precedente, no? Poi ci fu quel famoso scandalo. Vabbè, girava voce all'epoca che Juventus e Milan si spartissero gli scudetti a seconda di chi vinceva il torneo Berlusconi all'inizio della stagione, quindi praticamente ad agosto, no? E uno ci scherzava sopra, però guarda caso chi vinceva il torneo Berlusconi era, cioè, chi perdeva il governo, il trofeo Berlusconi era quello che avrebbe vinto lo scudetto, e succedeva sistematicamente questa cosa, quindi si alternavano. E praticamente in quell'anno lì è successo veramente un po' di tutto, no? Il famoso gol annullato a posteriori, così, giusto per, della Juventus a Parma, partite che hanno avuto un finale un po' strano in generale, fino a che ovviamente questo, senza considerare il famoso tocco di mano di Moreno, chi era, manco mi ricordo, insomma, in piena area di rigore di Juventus-Lazio, con Collina che ha detto no, è tutto a posto, insomma è successo un po' di tutto in quel campionato, no? E la gente però nel contesto talmente palese oramai in quel caso, no? Ma in generale se ne parlava veramente, se ne è parlato molto, poi dopo ovviamente tutti i siti, perché tutto sotto le ceneri, no? E la gente è scesa in piazza, sarà molto incazzata, insomma, e probabilmente l'anno dopo, che forse secondo me sì, il livello era più o meno lo stesso, però non so se era proprio la stessa, secondo me la squadra che ha vinto dell'anno precedente era anche più forte di quella dell'anno dopo, e alla fine comunque in qualche maniera secondo me hanno fatto vincere sto scudetto, insomma, no? Quindi alla fine è stato un po' così, no? Cioè, nel senso, magari alcune situazioni, e questo mi fa pensare al fatto che oggi la gente non si indigna più, questo è un po' il discorso, perché prendendo spunto da quello che ha scritto Walter in chat, che avevo comunque tenuto in considerazione di affrontare negli ultimi due temi, anzi l'ultimo tema che è questo, il fatto dello striscione, perché vedete proprio lo sport che sistematicamente perde le occasioni, cioè proprio fa del tutto. Io che so quello che te deve menare, fa del tutto per non menarti, e tu invece che sei quello che deve ripristinare un presupposto morale, etico all'interno del mondo del calcio, sei quello che sta a fare del tutto per non farlo. E vedi il giudice sportivo dà una giornata di squalifica alla curva del Verona per uno striscione che forse è il più grave esempio, più brutto e grave esempio di razzismo becero annesso e connesso con fatti di guerra, perché poi io, cioè, che ci sia sempre stata sta cosa tra veronesi e napoletani e che i veronesi hanno sempre mai perso l'occasione, insomma, per dimostrare la loro intelligenza, questo noi lo sappiamo, però questa volta secondo me è stato troppo grave. Io ho visto giornate di squalifica delle curve o addirittura sospensione del campo per dei bu, ragazzi, dei bu che poi i bu so sempre una cosa controversa, perché i bu razzisti sono i bu razzisti, i bu a volte no. Io ho fatto 15 anni di stadio, ragazzi, io vedevo i bu li facevamo pure a coso, a, come si chiama l'ex allenatore del Milan lì, a Gattuso. Cioè, quando è bu a Gattuso, perché a quello che ti sta più sul cazzo, quello che vuoi mettere più in condizione, in difficoltà, roba del genere, cioè i bu, no? Poi ovviamente sono anche i bu razzisti, questo non sto dicendo questo, non, però veramente per molto meno ho visto delle squalifiche del campo, molte ammende, esemplari o cose, e qui una giornata di squalifica. Cioè, una cosa che è connessa alla guerra, al razzismo, all'incitamento all'odio, perché poi lì tu stai di Putin, bombarda Napoli, cioè, con le coordinate geografiche, cioè, ragazzi, ma stava a scherzare. Stava a scherzare. E nessuno si indigna, cioè, se fosse stata la curva da Lazio e della Roma, sarebbe successo l'infinito in mezzo. Se fosse stata la curva dell'Inter, non ne avrebbero proprio parlato, cioè, sarebbe proprio... non ci sarebbe neanche stato scritto niente sui giornali. E il secondo fatto, che rientra ovviamente in un tentativo ipocrita di preservare il calcio dai problemi finanziari, c'è questa cosa del famoso indice di liquidità, che è una cosa che anche Lotito ha voluto a suo tempo. L'indice di liquidità praticamente non contempla il bilancio della società, ma contempla all'atto del, al momento in cui tu stai per affrontare una determinata cosa, quindi in questo caso era il calciomercato, deve essere certificato che la quantità di soldi che tu hai a disposizione sia sufficiente o superiore a un determinato indice che ti permetta di operare dal punto di vista del mercato senza andare al di sotto, quindi creare un debito a te stesso. E di principio ci sta come tipo di cosa. La cosa ridicola dell'indice di liquidità è che io, che ho 5 milioni di attivo nel bilancio, ma non ho una potenzialità di liquidità immediata, non posso far calciomercato, e la società che ha 400 milioni di debiti ma che versa in quel momento una ricapitalizzazione dei 50 milioni può far calciomercato, perché crea liquidità, cioè in quel momento crea liquidità su quel determinato segmento periodico, ok? Quindi in questa grande lotta chiaramente fra Gravina e Lotito, che oramai è diventata uno scontro politico chiaramente, ed è ridicolo, non tanto per... è ridicolo anche per Lotito, perché chiaramente, cioè, lui oramai ha queste posizioni, queste impuntature, no? Ma è ridicolo a livello, per quanto riguarda Gravina, perché lui, dovendo rappresentare un'istituzione, oramai è abbastanza smaccato che c'è questo contrasto, questo scontro, che è uno scontro politico. Perché oggi l'indice di liquidità diventa elemento indispensabile per l'iscrizione al prossimo campionato. Il che significa che l'Inter o il Milan o la Roma, anche perché pure la Roma ha le sue belle pezze, che hanno centinaia di migliaia di euro di debito a livello di bilancio, quindi con quello che poi ovviamente è anche il rischio dell'esposizione finanziaria, perché oggi queste squadre sono sorrette da disposizioni di finanziamento, da fondi o cose del genere, che però un giorno possono anche rompere il cazzo, cioè non è che è detto che... e quindi mette tutti sul lastrico, tutti in mezzo alla strada. Quindi queste squadre che hanno centinaia di migliaia di euro di debito di bilancio possono permettersi di iscriversi al campionato mettendo 30 milioni nelle casse. E quelli che invece magari stanno a posto col bilancio, però hanno sono autosufficienti, quindi si autoalimentano con il proprio indotto, non si possono permettere più di iscriversi al campionato. Chiaramente questa cosa avrà delle conseguenze, perché se puta caso dovesse succedere che Napoli e Lazio non si possono iscrivere al campionato di Serie A perché Gravina ha fatto di tutto perché venisse imposta questo tipo di regola, chiaramente succederà il pandemonio. Io mi auguro succederà il pandemonio, perché ricordiamo che l'Inter ha vinto lo scudetto, perché questa è una cosa importante, che Gravina verso le squadre che hanno questo problema di indice della liquidità, ha detto che non ci saranno deroghe perché bisogna essere intransigenti. Però l'Inter ha vinto lo scudetto chiedendo una deroga sul pagamento degli stipendi che era sbilanciato dei 6 mesi. Cosa che anche quella da regolamento non può essere, no? Lì però la deroga gli si dà perché è all'Inter, che fai? Cazzo, c'è Lukaku, stanno a vincere lo scudetto, c'è Conte in panchina, per carità di Dio, no? Insomma, quello che voglio dire è che è tutta una merda. Ma questo lo sapevate già. Eppure, ciò nonostante, anche se tu sai che è una merda, rimani un po' incollato a questa cosa perché dici, vabbè, però a me tutto sommato che me ne frega, mi fa divertire. Però poi quando vedi che queste cose cominciano a diventare ridicole e diventa proprio una battaglia, una guerra che ha veramente una connotazione politica a questo punto, non è più una questione di scelta morale nei confronti del calcio e via dicendo, quindi facendo delle scelte che chiaramente ostacolano qualcuno piuttosto che un altro, quindi insomma poi diventa un po' anche... nel senso, io mi ci incazzo anche di più, cioè come dovrei dire ammazza che schifo e accannà, no, invece mi centigno di più perché siete delle merde, dai, onestamente, dai. Ma poi sempre per difendere gli stessi, e che questo bisogna dirlo una volta per tutte, perché poi alla fine magari Alex si arrabbia, quello litighi con quello perché è un'altra squadra, bisogna dire poi tutte queste regole, tutte queste manovre per sostenere delle squadre che non solo hanno sciacallato il calcio italiano perché hanno concentrato su di loro tutte le risorse possibili e immaginabili per raggiungere dei risultati che non hanno mai raggiunto e che non raggiungeranno mai, perché ha voglia fare i meritocratici, i fighi, noi 70 milioni quello, eccetera, e poi dopo alla fine comunque essere il provinciale in Europa. Cioè non solo hanno sciacallato il carcere italiano, ma addirittura definiscono ancora, continuano a definire determinate regole dicendo che ma qui oramai il carcere non è più sufficiente per noi, dobbiamo fare anche altro. Ma mia nonna diceva una cosa: vaffanculo. Ciao, sono Laura dall'Emilia Romagna e ascolto Round Time Radio. Madonna ragazzi, è tardissimo, non me l'ho accorto, scusate, mi sono fatto prendere da sta cosa dell'indice di liquidità, che è questo bellissimo fattore di spendibilità che tu hai in quel determinato periodo, ossia tra il costo d'esercizio dei tizi e caio e quello che invece tu c'hai nella saccoccia. Se c'è un avanzo positivo puoi fare, se no non puoi fare, sti cazzi del bilancio, sti cazzi della finanza, sti cazzi delle regole, sti cazzi delle tasse, sti cazzi di tutto, non ce ne frega un cazzo perché noi siamo il calcio italiano e viva la Juventus e viva il Milan e viva l'Inter. Questo è un po' il discorso e quindi se andiamo tutti quanti un po' in der posto, che lo conoscete insomma qual è in der posto, ragazzi. Interposto è quello che dice che a un certo punto mo noi famo così e se ne andiamo a casa, perché giustamente è arrivato già il momento, anzi l'ho già sforato, non mi sono reso conto, ma d'altronde stamattina è successo l'inverosimile e quindi alla fine Callag un po' sforato. Ragazzi, questo è www.lantameradio.it, mi raccomando, se avete la possibilità andate sul sito, cliccate sul tasto anche io e fate una donazione, una tantum su PayPal o ricorrente su Patreon. Aiutate la radio ad essere viva, a continuare a fare podcast, a continuare a fare contenuti e a farvi compagnia come abbiamo sempre fatto durante questi anni, e in particolare questi 2 anni insomma di difficoltà anche dovute dal Covid. E vi ricordo anche che questa sera alle ore 20, dalle 20 alle 20:45, c'è l'ultimo appuntamento della settimana. Oggi è giovedì, no? Giusto? Sì, è giovedì. L'ultimo appuntamento della settimana delle orazioni della sera di Walter Sbano, e alle 21:30 ci sarà anche Quando eravamo futuro, parleremo di Radio Libere, della nascita delle Radio Libere, prima in precedenza Radio Prima Pirate, che si sono poi trasformate in Radio Libere, ed è una cosa assolutamente interessante. Venerdì, domani mattina sicuramente c'è Leo, se non c'è Leo perché ancora non ce la fa con la voce, non c'è niente, perché io non è che posso fare tutte le mattine, insomma io voglio bene a tutti, però praticamente questa settimana ho fatto live tutte le mattine, insomma mi piace, mi diverto, però alla fine anche un po' di pazienza e di buona volontà, insomma. Detto questo, io ringrazio tutti, mi raccomando, venerdì sera c'è Runtime by Night, non ve lo dimenticate, perché quello insomma io ci tengo, che probabilmente sarà anche una bella puntata, forse c'è anche un'altra volta Marco Gualdi in studio con noi, che insomma arricchisce sempre un pochino. Detto questo, io ringrazio tutti quelli che hanno ascoltato, nello specifico Walter Sbano, che ha contribuito insomma diciamo nella discussione. Mi spiace che io leggo poco, ma oggi stavo proprio, avete visto insomma quali erano le condizioni. Grazie a tutti, buona giornata e buongiorno un cazzo a tutti quanti.